e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Penseranno che siamo impazzite. Sì, apriamo la puntata così. Siamo rock, un po' canterine, perché la ricerca conferma quello che io e Deborah abbiamo sempre sostenuto. Certo. E canticchiato. Ci sono delle musiche che come dei tarli entrano nella nostra esatto. testa. E non la canzone che ti passa nella testa. Basta. Che c'è il sole oggi. Però comunque c'è questo studio dell'Università di Durham che ha confermato che ci sono delle melodie che rimangono in testa più di altre. È il caso ad esempio di Poker Face di Lady Gaga, della canzone dei Queen. Magari, perché no, anche della sigla di Cuore Denari. Ma magari. Scrivetecelo. Chissà se se la sono messa anche come suoneria del telefono, perché sai che va anche molto di moda. Non ti capita di sentirne sempre stravagantissime in metropolitana? Qualcuno squilla il telefono del cellulare, sì. Il cellulare, ci sono delle musiche. Vabbè, allora invitiamo i nostri ascoltatori a schiarirsi la voce? Assolutamente, chiamateci, canticchiateci quello che avete in testa, potete farlo in diretta all'800 24 00 24. Per ogni ascoltatore canterino un bel libricino, vi raccoglieremo cammin facendo nel corso della puntata, quindi cantate. La vuoi sentire la canzone che mi frulla in testa più di tutte in questo periodo? Dai. Lo sai qual è? Sentiamola. Investire informati. Investire informati. Più che la canzone che ti frulla in testa, è un vero tormentone. Speriamo che diventi il tormentone d'inverno dei nostri ascoltatori, soprattutto di quelli che venerdì 18 alle 18, quindi due giorni mancano a questo grande evento di Milano presso la nostra sede, c'è l'Investire informati live, perché allora c'è stato anche un po' un equivoco, perché molti ascoltatori pensano che l'evento si potrà seguire via streaming sul sito di Radio 24. Purtroppo questa volta non ce l'abbiamo fatta, è live perché tutti gli ospiti che si sono avvicendati nei nostri giovedì di Scuola del Risparmio di Investire Informati saranno presenti all'evento di venerdì, per cui raggiungeteci e potete venire insieme. Esatto. Per farlo naturalmente però dovete accreditarvi, andate sul sito di Radio 24 al link Investire Informati, ci sono solo 2-3 informazioni da mettere che vi riguardano, iscrivetevi all'evento e poi naturalmente venite a seguirci venerdì. Insomma, vi aspettiamo in tanti, già in tantissimi vi siete iscritti, ma ci sono ancora dei posti a disposizione. Purtroppo Nicoletta mi ha già detto che non viene, però no. Io la saluterò in diretta vi al metto posto un, vostro. Vi metto la foto esatto. vicino a te. Esatto. Mi scappa la pipì, papà. Benissimo. Tarlo di Zeno che già comincia, anzi, no? Sì, suo figlio la vuole sempre ascoltare, la canteremo. Cara, benissimo, vediamo se ci sono delle altre nella suoneria. Io invece metto lo Sfuriate di Oscar Giannino, ci scrive Ugo, glielo riporteremo visto che peraltro è anche nostro vicino di scrivania Oscar, e quindi glielo racconteremo direttamente. Comunque è stata per anni la mia suoneria, forse la sigla. Quale? Di Cuore Denari, ci scrive Elisa, lei è un mito. Subito scatta il libro. Allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Una puntata ricca di temi, di spunti, di argomenti, ma anche una puntata per cantare la canzone che vi batte in testa. Intanto facciamo sentire la canzone che ci introduce la nostra rassegna stampa di denari. Giornata contrastata sui mercati azionari, abbiamo negative Parigi, Francoforte, Londra, meno 0,2%, mentre positiva Milano, +0,34%, sul FTSE MIB. Migliori titoli Fiat, +2,5%, Monte dei Paschi, +1,63%, molto movimento. Su Monte dei Paschi il gruppo ha presentato il piano di conversione delle obbligazioni in circolazione in azioni appunto della banca. E naturalmente faremo una puntata specifica su questo tema che è molto delicato e riguarda 40.000 risparmiatori italiani. Unipol +1,63%, Leonardo Finmeccanica in rialzo di 1,5%, mentre tra i cali più forti troviamo anche in questo caso titoli bancari, tutte le altre big, Unicredit perde 1,5%, lo perdono le popolari e Banca Mediolanum. Stamattina abbiamo avuto un buon rialzo di Tokyo, +1,10%, e ieri nuovo record anche per Wall Street per la fiducia, dice qualcuno, verso la squadra di governo che sta formando Donald Trump. E dopo la borsa parliamo invece di tutt'altro argomento, di gomme, perché è scattato ieri l'obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo in oltre il 30% delle nostre strade italiane. Allora, avete preparato l'auto per farla circolare nelle migliori condizioni di sicurezza in questi mesi invernali? Attenzione, perché il freddo, la brina, l'umido, la pioggia non solo fanno venire i malanni di stagione, ma possono compromettere anche la circolazione e la nostra sicurezza. Quindi, oltre all'erisimo e cos'è l'altra cosa che si prende per il mal di gola? L'echinacea. Bisogna anche viaggiare con l'auto in condizioni di totale sicurezza. Con la sciarpetta. Buongiorno al nostro ospite di riferimento quando parliamo questo argomento, il nostro ospite di stagione Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. 4 minuti di tempo per dare tutte le raccomandazioni del caso ai nostri ascoltatori. Naturalmente ricordo anche che tutti gli interessati al tema possono collegarsi sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it, dove sono riportate tutte le informazioni utili per gli automobilisti e la filiera. Ci sono anche i dettagli delle ordinanze appunto locali da rispettare, suddivise per aree geografiche, le raccomandazioni per un corretto stoccaggio del cosiddetto treno pneumatici, del treno gomme, no? Perché in gergo Bertolotti si chiamano così. Ci fa subito il punto sulle regole in vigore? Molto semplicemente, da ieri vigono ordinanze, sono ordinanze di natura locale, quindi ci sono comuni, ci sono province, ci sono regioni, autostrade, ANAS, quindi la situazione è alquanto complicata. E quindi per cercare di viaggiare sicuri e in regola è bene essere informati. Noi da tempo abbiamo questo servizio sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it. Ciascuno può andare a verificare se la strada che va a percorrere è una strada che è coperta da ordinanze. Però al di là dell'obbligo c'è un discorso molto più serio, etico e di opportunità e buon senso, buon senso è quello di viaggiare o con dei pneumatici invernali, cioè quei pneumatici che hanno sul fianco una scritta M+S che è l'obbligo di legge, ma meglio ancora se accompagnata da una montagna con tre punte, con un fiocco di neve al centro, il cosiddetto pittogramma alpino, che identifica che quelle gomme hanno delle caratteristiche prestazionali più elevate quando fa freddo, poi quando nevica non hanno la necessità di montare le catene, oppure c'è la possibilità di mantenere le pneumatici estivi e di avere al seguito delle catene pronte per essere montate, ovviamente quando c'è il suolo. Senta Bertolotti, questa data del 15 novembre è ultra rigida, rigidissima per chi viene pizzicato con pneumatici non in regola, che cosa succede? Ma l'entrata in vigore è rigida, nel senso che non... Credo che poi con il buon senso che contraddistingue le forze dell'ordine, laddove nei primi giorni dovessero essere fermate delle vetture in assenza di neve o di particolari condizioni invernali rigide, credo, spero che chiudano un occhio, però in linea di massima la norma di legge è chiara, è precisa, è cogente e tassativa, quindi dal 15 di novembre sino al 15 di aprile ci sono due possibilità, pneumatico invernale oppure pneumatico estivo con catena al seguito pronta per essere montata quando c'è neve. Ci sono molti automobilisti, Bertolotti, che provano così a preoccuparsi un po' meno di questa scadenza, quella invernale è il 15 novembre, poi c'è quella di primavera che è il 15 aprile, adottando pneumatici definiti per tutte le stagioni, le all season. Vanno bene? Ma allora, vanno bene, vanno male. Innanzitutto il termine, come ho avuto modo di dire più volte, il termine all season, multipurpose, all weather, 4 stagioni. Io faccio dei pneumatici estivi che vanno bene in inverno, io faccio dei pneumatici invernali che vanno bene in estate. In realtà sono, delle definizioni commerciali dietro alle quali ci sono dei contenuti tecnici diversi da azienda ad azienda. Quello che tecnicamente, giuridicamente è chiaro è che o un pneumatico è privo della scritta M+S e quindi è da considerarsi un pneumatico che non è la scritta estivo. Monte dei Paschi naturalmente, no. Ma è un'altra cosa, certo. Non vorrei generare della confusione stamattina, M+S non è il Monte dei Paschi, no, potrebbero regalarla ai loro clienti. M+S sta per mud, fango, snow, neve. Ecco, quindi se non c'è questa scritta M+S è un pneumatico normale, è un pneumatico estivo. se invece ha questa scritta e molto spesso è accompagnata da questa montagnetta a tre picchi, a tre punte con un fiocco di neve, a questo punto è da considerarsi un traumatico invernale. Queste sono le due differenze che contraddistinguono un estivo da un invernale. Tutto il resto sono dizioni, formulazioni commerciali rispetto alle quali bisogna verificare il contenuto tecnico di quei materiali. Allora, le cose da dire sarebbero naturalmente tante, le essenziali le abbiamo dette. Per tutte le informazioni, naturalmente, per gli sprovveduti del pneumatico di stagione si può andare sul sito pneumaticisottocontrollo.it. 30 secondi, Bertolotti, per l'ultima raccomandazione che ci siamo, a cui lei tiene particolarmente, che ci siamo dimenticati. Una raccomandazione, attenzione, che chi ha mezzi 4x4 SUV, quindi a trazione integrale, è sicuramente più di ogni altro quel mezzo che deve avere montate quattro gomme pneumatici invernali e non due come per quel che può essere un corso catene. Questo è importante perché, attenzione, se è importante la trazione in salita, poi in discesa la trazione non c'è più e con mezzi così pesanti si rischia di perdere il controllo del mezzo. Grazie a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Ci ritroviamo qua presumibilmente attorno al 10-15 aprile, Bertolotti, per l'altro cambio appunto di stagione dei nostri pneumatici. Allora, abbiamo il traffico. Buona giornata. Buona giornata. Sì, andiamo alla sua canzone, la sua canzone che le martella sempre in testa, Bertolotti. Ne ha una? No, francamente io è meglio che non canti e che non sia di queste. Ma questa è una cantata silenziosa, insomma. Una... No. Tra sé e sé. Ma, allora no, niente, niente libro. Direi che i Queen che ho sentito citare sono certamente uno hai dei visto strumenti. Hai visto come mi è moderno, dottor Bertolotti. L'aspettiamo qui, buona giornata. Bene. Grazie. Traffico, intanto il traffico, a tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Cuore e denari. Dicono che i cani ignorano la loro immagine riflessa negli specchi perché non possono annusarla. I cani, a differenza delle persone, non vengono ingannate da quello che vedono. Theodore Sturgeon. Hai sentito? Theodore Sturgeon. Addirittura lui, non, ti vado a prendere per aprire la rassegna stampa di oggi, la rassegna stampa di Cuore, che ci porta direttamente, niente po' di meno che al Parlamento europeo, dove ieri è stato presentato lo studio sulle potenzialità dell'olfatto dei cani nel diagnosticare il tumore della prostata. Lo studio, che è stato avviato nel 2012, è in collaborazione col Centro Militare Veterinario di Grosseto, con il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa, ma è coordinato dal dottor Gianluigi Taverna, responsabile dell'urologia di Humanitas Mater Domini di Castellanza, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Allora, dottore, una giornata che le avrà sicuramente fatto battere il cuore, perché la ricerca è stata presentata ai parlamentari europei, alla Commissione Salute e Ricerca, come, state a sentire bene, esempio di innovazione in ambito sanitario e scientifico. Che effetto le ha fatto? Beh, mi sono divertito, io devo dire la verità, è stata una piccola soddisfazione, ma è stato divertente e piacevole, insomma. Non abbiamo fatto niente di particolare, abbiamo presentato la nostra esperienza, ecco. Ecco, allora facciamo un passo indietro e partiamo un po' dall'inizio per spiegare ai nostri ascoltatori com'è nata la vostra ricerca. Insomma, non c'è bisogno di pensare ad un cane da tartufo, un cane poliziotto, per rendersi conto che l'olfatto dei nostri amici a quattro zampe è molto, molto più sviluppato di quello di noi bipedi, perché ho letto che se le nostre cellule olfattive sono circa 5 milioni, i nostri amici pelosi ne hanno almeno 40 volte tanto. Ma le ricerche partono proprio dal fiuto canino, per arrivare ad un suo vero e proprio impiego clinico, quindi sfruttate il fiuto del cane. Ad oggi, attualmente no, non lo sfruttiamo se non in senso di studio. Sì, certo. Cioè, oggi non può essere utilizzato nella pratica clinica quotidiana, però è una cosa molto interessante. Lo studio nasce da un'osservazione fatta 30 anni fa da un inglese che si chiama Williams, che ha valutato, ha scoperto che il suo cane un Doberman, aveva capito prima di lui, che era dermatologo, che sua zia avesse un melanoma, cioè un tumore maligno alla coscia. Io, che amavo i Doberman, leggo questa notizia su Lancet, che all'epoca era una rivista, sicuramente la rivista scientifica più importante in ambito medico, e telefono a Williams e gli dico: ma cos'è sta storia? E lui dice: guarda, non sono matto, non ho idea del perché, ma il mio cane non sbaglia un melanoma. Ecco, ci sono voluti 30 anni per riuscire a organizzare lo studio e portarlo a termine. Noi abbiamo verificato che il tumore ha un odore specifico. Noi studiamo quello della prostata, ma si possono studiare anche altri tipi di tumore. Ha un odore specifico e il cane riesce a riconoscere questo odore, se adeguatamente, rigorosamente addestrato, praticamente sempre. E quindi questo è un po' determina, apre vari campi di ricerca. Ad esempio? Il primo è innanzitutto capire che tipo di metabolismo determini questo odore specifico, cioè ogni tipo di tumore ha un suo odore, no? Noi non sappiamo oggi che tipo di metabolismo lo determini, cioè se sia un fatto cellulare, se sia un fatto di tessuto, di zona tumorale, oppure se siano dei metaboliti che vengono poi alterati e modificati in circolo. Non lo sappiamo e questo può aprire molti spunti in ricerca di base. L'altro tema è cercare di capire quali molecole determinano l'odore e in ultimo trovare delle soluzioni tecnologiche che possano, se non affiancare completamente il cane, sostituirlo in parte, perché questo potrebbe avere dei grossi sviluppi dal punto di vista diagnostico. Ecco, immaginiamo quindi dopo il can da trifula, come si dice da noi in Piemonte, c'è il cane, perché i cani che avete utilizzato sono dei cani naturalmente addestrati. Sono dei super cani, sono i cani dell'esercito, del centro militare veterinario con il quale ho l'onore di collaborare da anni, e non sono cani normali, sono cani che normalmente vengono selezionati e addestrati come cani antimina, quindi sottostanno a dei rigori sia di sangue che di addestramento che di capacità enormi. Io non so mai ma come spiegare. I due cani che voi avete si chiamano Zoe e Liu. E Liu, sì. Mm. Sì. E quindi hanno annusato campioni di urina fino a per dimostrare, appunto, per portare avanti questa ricerca. Come li avete addestrati? Sì. Noi abbiamo raccolto e continuiamo a raccogliere. Abbiamo raccolto migliaia di campioni di urina di persone malate e di persone sane o malate di altre malattie, e abbiamo addestrato i cani. È accaduta sul più bello, e non abbiamo più sentito il dottor Taverna, che ci stava raccontando. Immagino che hanno visto il dottor Taverna, stanno usando il suo cane, lo stanno usando, hanno notato che il cane riconosceva appunto l'odore di questo tumore. Tra l'altro i cani non sono solo protagonisti di ricerche, Deborah, ma anche di spot. Ah, sì. Mm-hmm. Allora, prendete una ragazzina che salta su un letto, un padre premuroso che le costruisce un tappeto classico elastico e un cane giocarellone, e aggiungete la magia del Natale e il nuovo spot che sta registrando migliaia di visualizzazioni. Ma ce n'è una versione anche con Donald Trump e Hillary Clinton, di cui abbiamo messo il link sulla pagina di Cuore Denari. Andate, ma restate con noi perché c'è il GR, e poi per par condicio parleremo di donne. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Mm, yeah. tornati insieme come anticipato per par condicio in questa seconda parte della trasmissione. Prima di occuparci del tema di denari, che ricordiamo Deborah che riguarderà... ha già scatenato l'inferno solo a dire la parola contanti. Ci occupiamo di donne, soprattutto di salute femminile, lo facciamo come sempre prendendo spunto da alcune notizie di attualità che vogliamo oggi commentare con la dottoressa Roberta Daccò, ginecologa al Centro Diagnostico Italiano. Buongiorno, bentornata e benvenuta. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. E buongiorno anche ai nostri amici canterini che ci stanno mandando WhatsApp sonori, canori. Vogliamo ascoltarne subito. C'è già anche di qualche Fabio. Anticipo natalizio, peraltro, interessante. Così, diamo. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Ma senti che bravo, eh? Bravo Fabio, un nostro amico libro canterino già, per ecco. Riceverà un libricino. Allora, dottoressa Daccò, ce n'è per tutti e per tutti i gusti, anche per i canterini. Quindi, però oggi vogliamo invitare le amiche all'ascolto a restare con noi, a comporre il nostro numero verde 800 24 00 24 per dubbi, domande, esperienze, storie, racconti, segnalazioni. Intanto, dottoressa, partiamo dalle mamme in attesa, perché l'OMS ha appena pubblicato le nuove raccomandazioni per una gravidanza più sicura. Rispetto alle precedenti linee guida, raddoppiano i controlli, che da 4 passano a 8, per dare modo agli operatori di monitorare meglio i 9 mesi di gravidanza e adottare quindi tutte le misure preventive necessarie, oppure individuare rapidamente eventuali rischi e quindi ridurre e prevenire le complicanze. Ma veniamo a noi. Solitamente le mamme da noi fanno una visita al mese, quindi alla fine della gravidanza siamo a quota 12. È un numero di controlli già più alto di quello previsto dall'OMS. Quanto alle ecografie, abbiamo forse il problema opposto, tendiamo a farne troppo. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Rispetto a quello che dice l'OMS, noi come ci poniamo? Allora, diciamo innanzitutto l'OMS ha modificato le linee guida perché purtroppo i numeri relativi agli eventi avversi nel 2015 erano ancora molti alti nel mondo. Quindi si parla di 303.000 donne decedute e di 2.600.000 bambini nel 2015. Ma il 99% di questi eventi avversi si sono verificati nei paesi in via di sviluppo, mentre chiaramente nei paesi come può essere l'Italia l'incidenza di questi eventi avversi è decisamente più bassa. In Italia, e l'Italia si piazza molto bene anche in Europa, l'incidenza è circa di 5-10 decessi materni su 10.000 nati ed è veramente tra le più basse al mondo. Nonostante in Italia noi abbiamo una nostra particolarità carina, che siamo sicuramente il paese europeo in cui le donne decidono di fare il primo figlio più tardi. Perché l'età media in Italia è 31 anni, quasi 32, contro i 29 anni e mezzo della Germania e 28 e 3 della Francia. Quindi com'è questo... che si chiama la primipara? Lo usano questo termine terribile, trovo, primipara attempata. Ma attempata a chi? Voglio dire, soprattutto suona molto malissimo. Come potremmo sostituirlo? Punto, non si dice primipara, è ognuno, nel tanto gli anni che ha li sa. Purtroppo i fattori sociali, i fattori personali hanno causato questa cosa. Quindi ovviamente sia perché forse decidiamo di avere un figlio più tardi, la nostra gravidanza è anche più consapevole probabilmente, siamo portati a farci seguire, a farci curare, anche gli operatori ci seguono in modo molto puntuale. Diciamo che sicuramente oltre alle ecografie di legge, l'andare dal ginecologo più o meno una volta al mese, poi di solito il ginecologo fa vedere il bambino. Ed è un discorso che è assolutamente rassicurante per la donna, perché non c'è niente di meglio di sentire il cuore, vedere il bambino che batte, il cuore del bambino che batte, il bambino che si muove. Dare rassicurazione è sicuramente la cosa più bella, oltre che chiaramente seguirla. Quindi siamo adeguatamente controllate o facciamo più controlli di quelli necessari? Tendiamo a supercontrollarci? Diciamo che siamo abbastanza super controllate probabilmente. Abbiamo un altro canterino. Davvero? Dottoressa Daccò, non è che la dottoressa Daccò a scatenare... Io? sì, perché un omaggio alle donne. Andiamo. Sarà che sono figlia di musicista. Dreaming of a white Christmas. Just like the Christmas card I write. Con insomma, un po' di anticipo però, eh. Beh, ci porta subito nella magia natalizia. Anche a questo ascoltatore che... È un ascoltatore poi, o un'ascoltatrice? Ascoltatrice, non so. Sappiamo. E ci scriverà naturalmente tutti i suoi recapiti, faremo avere a casa il libricino. Ma dottoressa D'Acco, le raccomandazioni dell'OMS naturalmente non si limitano ai controlli medici ed ecografici. Nel documento si sottolinea l'importanza dell'alimentazione, dell'attività fisica, in una parola dello stile di vita. Niente fumo, niente alcol, niente droghe, poco caffè e come sempre sì alla supplementazione di ferro e acido folico. Quale altra raccomandazione si sente di aggiungere e di sottolineare per le mamme all'ascolto? Quello che secondo me è più importante è volersi bene e voler bene al proprio bambino, quindi cercare di vivere bene la gravidanza, nel senso che uno la gravidanza non è una malattia, quindi io cerco sempre di spingere i miei pazienti a andare a lavorare dove stanno, laddove è possibile chiaramente, dove non ci sono fattori di rischio, di muoversi, fare passeggiate, anche andare a ballare senza fare cose diciamo troppo spinte, stare attente a quello che si prende, quindi farmaci va bene, anche il ferro fino a un certo punto, perché il ferro io lo prescrivo solo quando c'è una necessità, certo. Perché assumere ferro vuol dire dare comunque dei problemi all'apparato gastroenterico che già in gravidanza è un pochino impegnato, quindi o causare stipsi o difficoltà digestive, quindi sicuramente gli integratori che magari potrebbero essere attualmente integrati anche con gli integratori con il DHA che aiuta la maturazione del cervello del bambino. Attenzione anche ai prodotti naturali omeopatici, perché tante volte c'è ancora l'idea che un prodotto naturale non fa male, no, attenzione, o fa solo bene, esatto, ecco. Questa è una cosa che va assolutamente smitizzata, perché ci sono anche gli omeopatici naturali che possono fare male, quindi prima prendere qualsiasi cosa chiedere al proprio ginecologo, che sicuramente darà la risposta giusta. Anche l'agopuntura è un rimedio che può essere molto utile per diminuire la nausea. E infatti nel documento dell'OMS cita proprio l'agopuntura, dottoressa D'Acco. Lei la suggerisce assolutamente. E funziona. Di solito funziona. La nausea dei primi trimestri. Sì, poi può essere anche molto pericolosa. Sì. Pericolosa perché... Perché non tanto la nausea quanto il vomito. Chiaramente può causare degli squilibri, noi diciamo elettrolitici, quindi... causare anche un'ospedalizzazione, perché può essere molto seria per la salute della donna in gravidanza nel primo trimestre. Quindi in caso di nausea possiamo mandare il messaggio alle nostre ascoltatrici che la nausea gravidica si può... Sicuramente si può anche curare con l'agopuntura, se non funzionano i rimedi naturali come può essere lo zenzero, come può essere la vitamina. Nel momento in cui non riesce ad avere un successo, poi anche... Perché dottoressa D'Acco, sapere cosa fare significa vivere meglio, e probabilmente le donne hanno bisogno di informazioni e di indicazioni per vivere anche bene un periodo che per l'allungamento della vita rappresenta una fase importante e lunga della vita di noi donne. Dalla gravidanza infatti vorrei passare a parlare di menopause. Perché? Perché le ricerche ci dicono che ancora noi non siamo in grado di accettarla, di viverla serenamente. Stando infatti ad un sondaggio della Società di Ginecologia Ostetricia, 6 italiane su 10 pensano che la menopausa sia un periodo buio. Dottoressa D'Acco, su questo è difficile convincere le donne che invece la menopausa è una fase della vita? Sì, devo dire come... che vedere questo nuovo sondaggio mi ha anche un po' effettivamente rattristato. Rabbuiato, perché io credo che sia anche proprio compito nostro, di noi operatori sanitari, cercare di far passare il messaggio giusto e cercare di vincere un po' quelli che sono degli stereotipi, perché se in effetti guardiamo, a me a volte capita di vedere delle pazienti, magari non guardo l'età anagrafica, vedo delle donne fantastiche, super dinamiche, alle quali mai direi che hanno superato i 50 e magari invece riferiscono dei grandi disagi. Cioè io credo che sia un problema di accettazione soprattutto, esatto. E di comunicazione. Perché è molto più facile comunicare il disagio, quindi vai sui mezzi pubblici, inizi a sentire che le donne tra di loro parlano, io c'ho questo che non va, l'altro che non va, invece bisognerebbe cercare di mettere in evidenza quelli che possono essere invece dei fattori anche positivi, e aiutare a curare laddove è possibile, spessissimo è possibile, senza mettere paure che secondo me non sono assolutamente giustificate. Parlate di tante cose che la donna può fare, l'amore ad esempio. Anche l'amore durante la menopausa, anzi, perché rinunciare all'amore in menopausa? Molte donne si sentono assolutamente, no? Con la menopausa si sentono in qualche modo messe da parte. Si abbassa la serranda. Allora, io vorrei chiedere alle amiche, per voi che ci state arrivando, per voi che ci siete arrivate, o per voi che ci siete dentro, o che vivete accanto a una cinquantenne, cosa significa, che cosa ha significato affrontare questo passaggio? Lo chiedo a tutti voi per descrivere questa fase della vita con tutto quello che porta e comporta, con un'immagine o una parola che funzioni un po' come una metafora. Inizio io, che l'associo ad un paesaggio siciliano di fine estate, con la terra ancora calda, con i colori ancora vivi, i profumi intensi. Quello che ho negli occhi è un'immagine che rimanda ad una sensazione di pienezza. Dottoressa Dacò. Allora, io non sono molto fantasiosa, ma condivido molto la tua immagine, secondo me. Perché io sono per metà siciliana. E quindi è venuta tutta la tua sicilianitudine, è venuta fuori. Si diceva, la vita inizia a 40 anni, con il famoso libro del film della Marina Lante della Rovere. Poi adesso la vita media si è allungata, viviamo di più. E quindi con questa fase della nostra vita dobbiamo imparare a fare i conti, perché stiamo in menopausa almeno 30 anni, esatto, della nostra vita. Vogliamo stare 30 anni una donna è 84 anni, immusonite, depresse, eccetera. Perché 50 sono i nuovi 30, perché non c'è proprio motivo, ecco. Dottoressa Dacò, a proposito di anni, parliamo di menopausa fisiologica. Che età è giusto aspettarsela? A cavallo dei 50? Ci sono delle avvisaglie? Perché la menopausa non arriva certo dall'oggi al domani. Vabbè. L'età in cui è andata la nostra mamma può essere un'indicazione. Conta il menarca quando abbiamo avuto il primo ciclo? Ma in realtà quando abbiamo avuto il primo ciclo non conta. Sicuramente conta orientativamente l'età in cui è andata in menopausa la nostra mamma. L'età media è intorno ai 50-52 anni, qualcuno prima, qualcuno dopo. Purtroppo sono un po' in aumento le menopause precoci, per il quale è assolutamente importante prendere bene a carico la situazione e aiutare la donna che è colpita da questo evento molto spiacevole. All'intanto voglio leggervi i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Io sto da Dio, non vedevo l'ora, ci scrive Susanna da Alessandria. Un nostro ascoltatore, Massimo, ci scrive: spero non iniziate a consigliare gli ormoni. Dottoressa Dacò, allora apriamo questo capitolo. Si leggono e si sentono pareri discordanti riguardo alla terapia ormonale sostitutiva. Noi donne siamo molto confuse, sembra che ci siano due partiti, uno pro e contro, ricerche, studi, revisioni. A che punto siamo? Perché Massimo ci scrive questo messaggio con tanto di punto esclamativo? Ma sicuramente scrive questo messaggio perché c'è stata una demonizzazione della terapia sostitutiva ormonale negli ultimi decenni, direi, da che una pubblicazione internazionale ha dimostrato che la terapia sostitutiva causava un aumento del rischio di tumore al seno per assunzioni di più di 5 anni. Ora, dopo questa spauracchio che ci siamo presi tutti, perché anche noi medici ovviamente anche noi medici siamo diventati molto più cauti, adesso diciamo che si sta un po' rivedendo la posizione. Comunque io credo una cosa fortemente, che l'approccio deve essere come un vestito cucito addosso, cioè non bisogna parlare o dire terapia sì, terapia no. Cioè quello che dobbiamo cercare di fare è far star bene la donna, quindi accogliere le sue richieste, cercare di aiutarla, perché i problemi potrebbero essere, sono spesso problemi psicologici di non accettazione del cambiamento, quindi dipende dalla paziente. Allora dipende, un messaggio che ci arriva dalla nostra ascoltatrice. Cosa dice? Ho 47 anni ed ad aprile ho avuto l'ultimo ciclo e diagnosticato il conto alla rovescia per la menopausa. ho paura di avere rapporti non protetti, con mio marito sono crollati i rapporti per questa mia paura e non l'ha presa bene, ma ora sto meglio. Ho rifiutato la terapia ormonale sostitutiva, e questo ci scrive Daniela. Quindi un messaggio che sottolinea un aspetto, un problema abbastanza diffuso, dottoressa D'Accoy, che con la menopausa la sessualità nella coppia ha una specie di cambiamento, c'è un piccolo terremoto, uno tsunami. Allora, iniziamo a dire che noi ginecologi consigliamo di stare attenti con i rapporti, cioè mantenere delle precauzioni fino a un anno dopo l'ultimo ciclo, in quanto sono possibili di solito in questo periodo delle ovulazioni impreviste, che quindi potrebbero causare gravidanze indesiderate. Dopodiché la sessualità anche qui è molto variabile, l'approccio alla sessualità, perché se da una parte appunto è tra virgolette più libera, perché non dobbiamo più pensare al rischio di procreare, dall'altra a volte c'è un po' un problema secondo me legato all'immagine di sé della donna, perché la sessualità comunque presuppone un'esposizione, un'esposizione del proprio corpo al partner, e laddove non c'è una buona accettazione di se stessi può essere che ci sia una fuga. Dall'altro a volte, in una certa percentuale di casi, c'è un problema proprio di calo di desiderio legato al calo ormonale, o anche di dolore che può essere secondario a questa conseguenza, che a volte c'è, di asciuttezza e di secchezza dei genitali, che quindi fa sì che il rapporto sessuale sia un po' meno, più difficile, un po' doloroso e quindi fuggito. Ecco, però su questo ci sono delle soluzioni, naturalmente. Non possiamo, ci sono numerose soluzioni. Ecco, quindi il messaggio è: ci possono essere delle situazioni, delle condizioni che si presentano nel menopausa, questi ormoni a volte ci giocano degli scherzetti che non ci piacciono molto, però parliamone con il nostro ginecologo, con la nostra ginecologa, perché non la situazione può essere affrontata e superata. E questo si deve assolutamente. Perché allora sentiamo Rosario che ci chiama da Napoli. Buongiorno, certo, Rosario. Buongiorno a voi e grazie, eccolo, per la vostra trasmissione. Grazie a lei. Ci racconti? No, niente. Io quello che dico, visto la mia esperienza, è che l'uomo, il maschio, può contribuire molto a far superare il periodo iniziale della menopausa alla donna, facendola sentire desiderata, facendole dei complimenti. Nel caso di mia moglie addirittura è successo anche che invece di secchezza vaginale lubrificava di più. Allora, noi abbiamo una responsabilità verso le nostre partner, perché dobbiamo aiutarle a stare sempre bene, a sentirsi meglio, e in questo periodo sicuramente dobbiamo essere molto più attenti, molto più affettuosi e fare sesso, perché poi fa bene. Che questa grande sensibilità quest'uomo, hai visto? Vero, ha lasciato addirittura senza parole la dottoressa D'Accoy. Un libro anche a Rosario, cioè, un libro di cuore. Come non essere pienamente d'accordo è quello che tutte noi donne sogneremmo, no? Dottoressa D'Accoy, sull'uso dei flavonoidi di soia per il controllo delle vampate, sì, di calore, che cosa ne pensate? Ci scrive Claudia d'Arezzo. Leggo questo messaggio perché un'altra nostra ascoltatrice ci ha scritto: non è un periodo buio ma è un periodo caldo per le vampate. Sicuramente sono la prima scelta. I bioflavonoidi della soia o del trifoglio rosso sono gli integratori che di solito utilizziamo per aiutare a risolvere questo grande disturbo, sicuramente. Allora, menopausa, finiscono le mestruazioni e finisce il maledetto mal di testa mestruale. Wow, ci scrive Carmen. Mi fa molto piacere. Perché ci sentire sono dei anche messaggi positivi, dei sono messaggi, dei vantaggi, e le nostre ascoltatrici le raccontano. Ultimo minuto prima di andare a sapere come stanno i mercati, che non sono femmine, ma noi li monitoriamo ugualmente. Sono maschi e nervosi stamattina. Dottoressa D'Accoy, controlli menopausa, c'è chi ne fa troppi e chi ne fa poco, e quali sono quelli necessari, e c'è, allora, c'è un modo anche, allora, di, diciamo, intendere che questa. Sicuramente quello che succede in menopausa, ahimè, è la carenza degli estrogeni. Gli estrogeni comandano tantissimo nel nostro corpo, per cui ci sono degli apparati che vanno controllati dalla menopausa in poi, sicuramente in modo più significativo rispetto a prima. Noi ad esempio al centro diagnostico abbiamo organizzato un percorso donna con 4 diversi pacchetti diversi a seconda delle fasce d'età, in particolare quello della menopausa ci permette di tenere sotto controllo veramente gli apparati più, diciamo, tra virgolette, non dico a rischio, ma che vanno seguiti meglio. Chiaramente parlo della mammella, chiaramente parlo dell'apparato genitale e del pavimento pelvico, perché purtroppo quando i tessuti diventano un po' più fragili la tendenza all'incontinenza, al prolasso può peggiorare. Parliamo della tiroide, che può soffrire della mancanza degli estrogeni e quindi scatenarsi dei problemi di ipo o ipertiroidismo, delle vene e delle arterie. Purtroppo l'arteriosclerosi può iniziare a colpirci, quindi vanno controllati sicuramente i tronchi sovraottici, le ossa, la MOC, fare la MOC per vedere se, e succede in alcuni gruppi di pazienti, la mancanza degli ormoni provoca una diminuzione un po' repentina della massa ossea. Ci sono una serie di esami che è bene eseguire con una certa regolarità in modo tale da riuscire a tenere sotto controllo i problemi che potrebbero proporsi e affrontarli con le giuste terapie. Grazie dottoressa Dacò per essere stata con noi. Le ascoltatrici hanno molto apprezzato. Sì, sono arrivati tantissimi messaggi. Che dire, continuate a scriverci, potete mandarci una mail, cuoredenari@radio24.it. Intanto dottoressa Dacò, a prestissimo, la ringraziamo. Grazie per voi, essere grazie venuta mille. Qua. Grazie. Ma da queste due donne. Un saluto ad Anna di Venezia, noi glielo vogliamo mandare. Dai, Anna, leggi. 73 anni, cura ormonale, da sempre libido come una quarantenne. Fantastico. Grande, grandissima. Grazie dottoressa Dacò, noi andiamo a sentire i mercati che non sono libidinosi però. Ma qualche volta pure loro lo sono un po', oggi sono, come dicevo, prevalentemente nervosi, come si dice in gergo, sono contrastati, adesso vi racconto perché. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Allora, Nicoletta stamattina si è sbizzarrita a mandare il regalino ai nostri canterini, no? Avete aderito in tanti alla nostra provocazione, insomma cantateci la canzone che vi frulla in testa e molti hanno approfittato della situazione. Ne sentiremo ancora? Sì, perché no? Dai, continuiamo. Se volete avete anche l'opportunità appunto di mandarci la canzone col messaggio vocale su WhatsApp gratuitamente. Una sorta di colonna sonora. Esatto, 349-238-6666, che è lo stesso numero, se volete, che potete utilizzare per continuare ad inviarci le vostre foto di oggetti di denari da collezione, salvadanai, calcolatrici, portafogli, titoli di Stato, i buoni postali. Noi ci siamo adesso anche divertiti a pubblicare questa gallery appunto tra i contenuti extra di Cuore e Denari. Potete raggiungere la nostra pagina dal sito di Radio 24. La seconda è stata da poco pubblicata e ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno inviato i loro contributi. Allora noi abbiamo scelto quello che ci ha mandato il signor Stefano. Classe 1937, che era l'anno di mio papà anche, e che ha condiviso con noi una foto del salvadanaio ricevuto in regalo dai suoi genitori. Carino. Un bellissimo salvadanaio in legno. Non erano molti i regali in denaro, ci scrive Stefano, ma qualche monetina c'era sempre, per cui Stefano si aggiudica un libro della biblioteca di Cuore e Denari e voi, se volete fare altrettanto, continuate ad inviarci le vostre foto e la prossima settimana selezioneremo, tra quelle pubblicate in una nuova galleria, un altro ascoltatore per l'invio di un omaggio. Mi piace. Allora, e chissà se possiamo usare a nostro piacere il contante contenuto nel salvadanaio, Nicoletta, perché qua facciamo attenzione che a seconda di quello che c'è dentro magari scatta qualche controllo fiscale. Ahimè. Allora, Nicola Forte, consulente tributario, esperto del Sole 24 Ore, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Grazie a voi. A lei il compito di raccontare e spiegare ai nostri ascoltatori quest'altra ferale novità in arrivo, perché già in molti sono scattati sull'attenti e non è proprio piaciuto l'anticipo che abbiamo fatto dell'approfondimento di denari, Nicola Forte, perché qua già tutti dicono: ma è mai possibile che io con i miei soldi non posso fare quello che voglio? E la prima ad averlo detto è stata proprio Nicoletta, perché tutte le mattine lei va al bancomat e fa il prelievo, certo, da 1000 euro. Certo, sì, ecco. Perché non posso prelevarne di più, ecco. Allora, secondo un emendamento appena approvato nel decreto fiscale, per il quale peraltro è previsto anche il voto di fiducia, chi preleverà in futuro dal conto corrente una somma superiore a 1000 euro in un giorno o a 5000 euro in un mese potrà, parliamo al condizionale naturalmente perché ci sono delle condizioni, essere nel mirino e nella, come dire, oggetto di indagini da parte dell'Agenzia delle Entrate. Forte, ci spieghi subito che cosa ci aspetta, perché qua già in molti, non le dico quanto, si sono arrabbiati. Allora, iniziamo a tranquillizzare i nostri ascoltatori e quindi anche Nicoletta, che era molto preoccupata. Questa novità non riguarderà tutti i cittadini, non riguarderà i privati, non riguarderà i lavoratori dipendenti, i pensionati, neanche i professionisti, ma semplicemente solo gli imprenditori individuali, cioè che hanno la contabilità semplificata e che quando prelevano dal conto dell'attività, questo prelievo non risulta dalla contabilità. E allora, in base alla vecchia norma, si doveva giustificare chi era il destinatario di questo prelievo che non risultava da questa contabilità semplificata, appena subire un accertamento da parte del fisco, perché scattava una presunzione, cioè si pensava che la somma prelevata fosse utilizzata per pagare un importo in nero e quindi per produrre ricavi in nero. Questa invece novità è migliorativa. Per quale ragione? Perché si diceva, beh, ma io imprenditore in qualche modo devo poter vivere, devo poter prelevare del denaro per far fronte alle, certo, spese quotidiane. E allora sono stati messi dei paletti, 1000 euro e 5000 euro mensili sono giustificati e non devo spiegare nulla al fisco. Quindi qui si migliora, non si peggiora. Bisogna solo trovarli per poterli prelevare. Esatto, bisogna averli sul, ecco, conto. Detto questo, allora, intanto la misura è già operativa, forte? No, non è operativa, ecco, perché è un emendamento al decreto legge 193, il decreto che è andato in gazzetta il 26 ottobre, però questa è una modifica apportata nell'iter di conversione, dovremo, ecco, attendere la conversione e la pubblicazione in gazzetta. Potrebbe anche saltare, secondo lei? Ma diciamo, mi auguro di no, proprio perché è una norma che migliora, semplifica, tant'è che se andiamo a leggere l'emendamento, la rubrica, il titolo è disposizioni in materia di semplificazione, proprio perché si vuole migliorare il rapporto tra il cittadino e l'imprenditore, quindi mi auguro di no, perché risolve un problema. Allora, c'è naturalmente già qualche domanda da parte di alcuni ascoltatori. Noi stiamo parlando appunto di prelievi quotidiani superiori ai 1000 euro e mensili superiori a 5000 euro. Per quanto riguarda i versamenti, ci sono invece delle specifiche da fare? Forte? No, ma assolutamente no, nel senso che dobbiamo considerare che poi, e questo crea un po' di confusione, questa novità si va a innestare, a sovrapporre a quelle che sono le disposizioni di cui noi abbiamo parlato tante volte dell'antiriciclaggio, cioè anche in privato può andare in banca e avere esigenza di prelevare anche 5, 6, 7 mila euro, ma qui il discorso è completamente diverso, perché se prelevo troppo contanti, ripeto, ma il tema è vecchio, è completamente diverso, la banca potrebbe considerarmi un soggetto a rischio riciclaggio e fare una segnalazione. Il che non significa poi la contestuale apertura di una serie di indagini da parte dell'Agenzia delle Entrate, da parte del fisco. Diciamo che la circostanza obbliga la banca a fare la segnalazione. Certo, assolutamente sì. Poi è a discrezione della banca, perché solo se io... Ecco, magari conosce quell'imprenditore e sa di che tipo di bisogni, che tipo di bisogni ha, e magari non la fa. Può essere... Assolutamente, sì, c'è proprio la banca deve monitorare sempre i rapporti con la propria clientela, questo anche i privati, veniamo periodicamente avvertiti dalla banca, la banca ci invita a recarci presso la filiale perché ci deve nuovamente sottoporre un questionario, fa quello che tecnicamente è l'adeguata verifica della clientela, ma il tema è tutt'altro. Allora, Forte, noi ci abbiamo provato, ma lei non è stato proprio rassicurante con i nostri ascoltatori, perché senta cosa vuole fare Fabrizio, adesso vediamo se possiamo così un po' invitarlo a cambiare idea, se non altro per questioni di sicurezza a casa sua, perché Fabrizio non è che poi sia completamente immune anche da altre situazioni di pericolo, al di fuori di quelli dei pericoli legati ai controlli fiscali. Fabrizio, benvenuto. Pronto, buongiorno. buongiorno, grazie. Sì, premesso che io non ho nulla da nascondere, sono una persona onesta, non faccio cose illecite assolutamente. Ma non ce le verrebbe certo a dire Fabrizio se anche le facesse. Premesso questo. Se fosse vero che io in un mese dovessi aver bisogno di prelevare più di 5.000 euro per una spesa improvvisa, io non ho problemi a togliere i soldi, tenerli a casa come faceva mio nonno una volta. Ma perché, mi scusi Fabrizio, a parte che nessuno glielo impedisce, il tema è, adesso con Nicola Forte lo spiegheremo, se uno ha bisogno proprio di avere una cassa così importante a casa, cash, contante, liquidità, l'importante è che poi quando fa un prelievo così rilevante possa, se il fisco lo chiede, dimostrare per quale necessità è stato, appunto, c'è stato bisogno di fare questo prelievo. No, Forte, in due secondi perché devo dare il traffico, poi magari certo. Spieghiamo. Innanzitutto sì, appunto, se sono un imprenditore posso prelevare dal conto dell'attività, se supero queste cifre è sufficiente dire bah, queste somme erano destinate a tizio e per cui non succede proprio certo. Nulla. Allora, ci riproveremo a rassicurarvi. Detto questo, è anche vero che molti ascoltatori hanno anche ragione di non avere nessuna rassicurazione, perché poi il fisco, se vuole romperti le scatole, insomma, il modo per farlo lo trova sempre. Traffico, tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Alexanderplatz auf Wiedersehen. C'era la neve. Faccio quattro passi a piedi fino alla frontiera. Vengo con te. Allora, l'hanno cantata i più grandi artisti questa canzone. Io mi ricordo Milva. Ecco, incredibile, Alexanderplatz. Bravissimi i nostri ascoltatori che continuano appunto a cimentarsi nel condividere con noi la loro canzone del giorno, il tormentone in testa. Continuate, perché noi vi portiamo anche nei prossimi giorni, ecco. Vi utilizzeremo come stacchetto musicale. Certo, Nicola Forte, lei ha la canzone con la quale si alza il mattino e porta con sé tutto il giorno? Ma non ho una canzone fissa, in genere poi quando viaggio mi sposto. Oltre alla sigla di Cuore e Denari, che naturalmente porta nel cuore. Con piacere sempre con me. No, una canzone fissa. Questo è anche in funzione dell'umore, perché poi ovviamente la musica coinvolge, quindi anche in funzione dell'umore della giornata ascolto una canzone o un'altra. Allora Forte, ritorniamo invece al temone di stamattina che ha già suscitato il nervosismo di tutti i nostri ascoltatori. Allora, prelievi oltre 1.000 euro quotidiani, 5.000 euro mensili, potrebbe, se la banca ritiene opportuno fare la segnalazione per queste transazioni appunto all'amministrazione fiscale, scattare un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che in realtà non è che ci sanzionerà solo perché abbiamo fatto questo prelievo, ma ci chiederà conto delle modalità con cui questo denaro è stato utilizzato. Allora, mi chiedeva Nicoletta a microfoni spenti, io mi voglio fare questo super prelievo mensile perché ho deciso di dedicare due giorni interamente alla mia famiglia e portare le mie figlie al centro benessere, mio marito fuori a cena e portarlo in un super ristorante, spendere un sacco di soldi in champagne perché vogliamo festeggiare una ricorrenza importante. Ho inserito anche in questo sogno, ho inserito anche dei regali per te, però fuori onda. Non avevo capito bene, te l'ho voluto far ribadire a tutti. Nel caso, se io decidessi festeggiare a champagne, portare Deborah fuori, regalarle l'abito che le piace, si deve tenere tutti gli scontrini, ecco. Nicola Forte. No, lo può fare tranquillamente perché ripeto, la è un norma sogno, adesso non sembra si applica a Natale, vediamo ai privati. Si pone un altro problema, però, se io ho questa capacità di spesa, ma ripeto il tema è un altro, e questa disponibilità come l'ho ottenuta? È commisurata rispetto a quanto io mensilmente guadagno? Ecco. Ma quindi è un se altro teoricamente tema. La giacenza media sul conto corrente è di 10.000 euro e Nicoletta o Giovanna o Francesco una tantum fanno questo super prelievo in un mese, non è che in automatico appunto la banca faccia scattare la segnalazione? Assolutamente no. Ci deve essere una verifica di coerenza, ecco, di disponibilità finanziaria. Certo, poi le banche conoscono, anche c'è ancora un rapporto fiduciario di conoscenza di rete, anche se purtroppo si va sempre più spersonalizzando, però c'è comunque una conoscenza a livello di movimentazione media, quindi non scatta in automatico perché la banca deve fare una valutazione ed ha una discrezionalità se effettuare la segnalazione. Quindi dobbiamo essere tranquilli. Dobbiamo essere tranquilli del fatto che insomma la banca a sua volta si faccia un po' portavoce anche per noi di queste battaglie contro l'evasione fiscale, perché alla fine l'obiettivo è quello, ma a quanto pare è un obiettivo che non raggiungiamo mai, perché ogni volta parliamo di un'iniziativa nuova per combattere questa piaga e il risultato appunto finale è sempre un po' sfuggente. Andrea Da Lucca, benvenuto. 800 24 00 24, gli ultimissimi minuti di tempo per farci le vostre domande. Andrea? Pronto? Sì, ci siamo. Buongiorno, complimenti, vi ascolto sempre. Grazie. Bravo. Allora, le mie domande sono più di una, nel senso, io volevo chiedere, ma i 1000 euro al giorno sono per 30 giorni oppure raggiunto il tetto massimo dei 5000? Mi devo fermare. Ecco, Andrea, prima cosa, poi visto che le domande erano tante, gliene permetto un'altra, veloce. Ok, le carte prepagate? Prepagate. Andrea, grazie. Allora, forte, sono chiari questi aspetti nella norma, almeno come configurata fino a questo momento, o non abbiamo questo grado di dettaglio? No, no, ce l'abbiamo, nel senso che io devo spiegare al fisco a chi ho dato quella somma prelevata, ma la devo spiegare nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, e cioè solo se prelevo più di 1000 euro al giorno e supero nel mese i 5000 euro. Solo in questo caso devo spiegare a chi ho dato quella somma, certo, di denaro. Però ripeto, sempre se ho un'attività di impresa, non se sono un privato. Senta, una raccomandazione ai nostri ascoltatori, qualora appunto immaginassero di aver bisogno di fare queste movimentazioni che potrebbero risultare curiose alla banca e di conseguenze meritevoli di segnalazione all'amministrazione fiscale, che raccomandazioni possiamo rivolgere ai nostri ascoltatori? A parte appunto, a prescindere dal rapporto fiduciario, magari il direttore di banca ritiene non necessario appunto fare la segnalazione, qualora invece lo facesse, intanto il direttore di banca è obbligato a spiegarlo al correntista, al cliente? Niente, glielo deve dire che la sta facendo? Diciamo assolutamente no. Normalmente, soprattutto questo nel corso di un rapporto consolidato negli anni, alcune volte le banche invitano a fare attenzione, ma questo prima di effettuare la segnalazione. Quindi tendenzialmente la banca, se poi decide di andare avanti a fare la segnalazione, non avverte, non dice ho effettuato la segnalazione sospetta per l'antiriciclaggio, dice fai attenzione perché se continui in questo modo a gestire il tuo conto corrente ci troveremo costretti a segnalare. Certo. Il consiglio pratico che posso dare nei limiti del possibile: quando utilizziamo il contante cerchiamo almeno di mantenere traccia, memoria dell'utilizzo, di quello che in concreto ne abbiamo fatto. Il che non significa la spesa quotidiana da 10 euro. Assolutamente ecco. No, parliamo soprattutto di spese più sostanziose. Se io mi reco al supermercato per fare la spesa, diciamo è fisiologico che una ricostruzione dove mancano alcuni importi, diciamo non particolarmente elevati, è fisiologico che ci sia un impiego quotidiano. Parliamo di importi più significativi sicuramente. Allora, insomma, qua tutta un'altra serie di cose con le quali dovremo convivere presumibilmente in futuro. Andiamo magari all'ultima considerazione di Gaetano da Monza. Qua effettivamente le parentesi che si aprono sono tante, ma la contestazione mi sembra una e ricorrente, ed è quella appunto che esprime il nostro ascoltatore di Monza. Gaetano, velocissimo, grazie. Sì, pronto. Veloce. Niente, mi sembra praticamente assurdo che io debba spiegare al fisco o a chi per esso cosa voglio fare dei miei soldi. Cioè è un'assurdità umana. È inaccettabile. I soldi sono miei, faccio quello che voglio. Appunto. Che la banca me li tenga non vuol dire che io debba spiegare se faccio un prelievo, cosa sono il prelievo o cosa devo fare. I soldi sono miei e il corpo è mio, me lo gestisco io, il denaro è mio e lo gestisco io, un po' come la vecchia battaglia delle femministe. Gaetano, che cosa vuole che le dica? Questo è quanto noi abbiamo dovuto spiegare. Grazie, ma ci torneremo. Nicoletta, noi torniamo domani. Certo, vi aspettiamo. Grazie Nicola Forte, buona giornata.